Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, benvenuti a Rock Wave, Stefano Dainese ai microfoni. Questa sera abbiamo, come spesso ci capita, con nostra grande gioia, degli ospiti che ci presenteranno la loro musica dal vivo. È un duo, anzi una cantautrice accompagnata da un polistrumentista. Lei si chiama Casey McKenzie ed è qui per presentare il suo nuovo album Dryland, accompagnata da Pudi. Benvenuti, welcome. Hello. Hello. Loro vengono dalla Germania, anche se parlano perfettamente inglese, cantano anche in inglese, e la loro musica, come sentirete, è molto vicina alle atmosfere dell'America rurale. È una musica che è un po' fuori dal tempo, una musica che ci porta delle emozioni, diciamo, dal passato, però attualizzate con una cura molto attenta dei suoni. È un disco molto interessante, questo Dryland, che cominciamo ad ascoltarci con il brano che gli dà il titolo, e dopodiché avremo appunto il piacere di parlare con Casey e anche di ascoltare la loro musica dal vivo. Rock Wave, l'onda del rock. Me, I'm so tired of telling thee. Island è il titolo di questo brano e è anche appunto il brano che dà il titolo a questo album di Casey McKenzie. E questo è il suo quarto album, in Italia sta cominciando adesso a farsi conoscere, quindi la prima domanda che le farò è proprio così, che ci racconti un po' di lei. As we don't know you, please tell us your story as a musician, how long ago you started and what happened? We started 6 years ago, and Woody and I started playing, performing 6 years ago, and around that time we made records. We started making records as well. Si è detto, ha cominciato da 6 anni e a quell'epoca ha cominciato col suo primo disco. Your first record is 6 years ago, right? Yes. Yeah. So 4 records in 6 years, 4 yeah. dischi in 6 anni. That's a good average. There's nothing else to do. And You tour in mainly in Germany, I suppose, but also in the USA. È andata anche, le sto chiedendo se è andata anche a suonare negli Stati Uniti, perché sono curioso. Yes, we tour Europe at the moment. Italy for the first time, it's very exciting for us. And Switzerland we tour, and we've just been to England as well. Si è detto che al momento hanno girato solo in Europa, in Italia è la prima volta, in questi giorni stanno facendo appunto un tour italiano, poi sono stati in Svizzera e anche in Inghilterra. E, io le avevo chiesto questo perché sarei curioso di sapere le reazioni degli americani a sentire questa musica suonata da un'europea. I asked you about the USA because I'm very curious to know what happened when someone came from Europe to play this kind of music to the Americans. Well, we've never been there. We don't know what they think about it. But so far they liked it when some Americans been to our concerts, they liked it. And we have a lot of fans in Canada. Oh. I think. Si è detto al momento non hanno ancora fatto tour negli Stati Uniti, però hanno dei riscontri da americani che erano in Europa, che vivono in Europa e che hanno assistito ai loro concerti, e anche hanno avuto molti riscontri dal Canada. La loro musica in effetti me la vedo bene in Canada. I think your music fits very well to Canada. Thank you. This big forest, è una musica poco urbana e molto molto rurale. To my in my mind, it's music that lives outside of the cities, in the big open. Yes, space. It sounds a bit rural. Rural, yeah, rurale, appunto. So can you play something for us? Yes, we'd love to. Ok, allora adesso ci suonano qualcosa dal vivo, hanno diversi strumenti, sentite una, non so come si chiama, una piccola percussione, uno scacciapensieri, che pensavo fosse uno strumento tipico della Sicilia, ma invece esiste anche in altri paesi, e naturalmente la chitarra di Casey per questo brano che si intitola Machine Gun Fire. Dal vivo a Blue Radio Veneto, a Rock Wave, Casey McKenzie. Your door, darling, begging for more, darling, please let me in. No, I know I've been unkind, please let me in, I'm all yours this time. Mine keeps machine gun fire. And in my water he cooled his desire. So eat it up, boy. I fixed it well. Got a reason to live. Got a story to tell. Machine Gun Fire è un titolo che parla del fuoco di una mitragliatrice, ma non è, come avete sentito, un brano abbastanza tranquillo. È molto interessante, una cosa, un'impressione che ho avuto ascoltando il disco due o tre volte. Al primo ascolto ci ho sentito solo una cosa molto tradizionale, molto legata all'America. Poi riascoltandolo mi sono reso conto che c'è un qualcosa che non lo fa identificare come disco americano. Ci sono delle influenze anche di altre musiche, di altri posti, e che probabilmente un americano non ci avrebbe messo. I'm explaining what I'm saying. The first time I heard the record, it sounded to me very traditional. But at the second and third listening, I find something more. I mean, this is an American record, but I don't think that an American can do this. Because there is something, obviously, coming from other places. Yes. Was that your goal, or it just happened? Or I think we never claim to be copying an American band, because we are not from there. We use the sounds, that means we use the instruments, and of course the blues chords we found, but we never tried to copy them. Ok, si dice che non hanno mai cercato di fare una copia di musicisti americani. Hanno preso gli strumenti, hanno preso degli accordi del blues, ma non hanno cercato appunto di essere, di suonare come degli americani. E comunque è abbastanza strano. And there are a lot of English bands, of course, which have been a big influence for us. All the English bands from the 60s and 70s, many bands. So it's a combination of America and England. Yeah, si dice ci sono state anche molte influenze britanniche nella loro musica, band degli anni 60 e 70 che fanno parte appunto del background di questo disco. E c'è una grossa riscoperta di questi suoni da parte dei musicisti alternativi, anche musicisti giovani come loro, in America ma anche in altri paesi. Evidentemente forse il motivo è che la sentono più genuina. There are many young musicians of independent rock scene that are doing similar job as you do. Yeah. I mean, they are taking things from the past and trying to put in our age. But I think it's because this music is more sincere, maybe, or la musica più sincera, più semplice. Already Elvis and the Beatles did it. They just already Elvis and the Beatles took the music from the past and took it put it in their time. So it's an old story. It's nothing new, I think. Si dice che anche i Beatles e Elvis avevano fatto la stessa cosa, hanno preso la musica dal passato e l'hanno portata nei loro giorni. And it's very good to hear banjo on the radio again. We had no banjo in the all 80s and 90s, and now people play these instruments again. I'm very happy that many people play folk music. Si dice è bello risentire il banjo alla radio dopo che per gli anni 80-90 nessuno l'aveva più riutilizzato. È bello risentire questi suoni che fanno parte della tradizione del folk. Ok, let's go with another song from the record. The song is Lonely Fighter. Do you want to say something about the song? Or It's a song where Buddy plays double bass and drums, and I personally like the drums very much. Ok, le ho chiesto, thank you. Le ho chiesto se voleva dire qualcosa di questo brano intitolato Lonely Fighter, e ha detto che Woody in questo brano suona il contrabbasso e le percussioni della batteria, e lei ama molto appunto il suono della batteria. Dopo parleremo un attimo degli arrangiamenti, intanto ascoltiamoci questo Lonely Fighter. Rock Wave, l'onda del rock. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo brano si intitola Lonely Fighter, e mentre andava il pezzo stavamo così facendo alcune riflessioni su questo revival del folk, in maniera forse un po' ampia andrebbe inteso come termine. I don't think it's just folk music, it's more it's a music that is also folk, but has a lot of other things in it. Yeah. Because it's not so traditional. And can you repeat what you were saying before, please? I think it's not about a revival of traditions. So people don't run around and collect old songs and play them. That happened in the 60s and 70s, I guess. And people met in cafes and they were playing old songs to each other. But then there were people like Bob Dylan who wrote new songs. And this happens now as well, that people write alternative new stuff but use old sounds and old rhythms or melodies. They sing about their life nowadays. Yes. Giustamente dice, un revival è quando si suona della musica vecchia, come succedeva, come è cominciato a succedere all'inizio degli anni 60 col recupero di tradizioni, di canzoni tradizionali folk, country in America. Ma poi è arrivato Bob Dylan che ha cominciato a scrivere delle canzoni nuove basandosi su quegli stilemi, e quello che sta succedendo adesso è più simile a quello, ovvero sia c'è della gente che scrive delle canzoni nuove utilizzando, diciamo, gli strumenti, nel senso non solo gli strumenti musicali ma anche culturali, che permettono appunto di recuperare queste sonorità, ma mettendole nell'oggi, perché parlano della loro vita di oggi. Quindi è chiaro che una band di ventenni, quando scrive una canzone che parla delle loro esperienze, racconta delle cose che non potevano esserci 50 anni fa. I suppose when a 20-year-old kid write a song about his life for today, he cannot write the same things that you find in all the traditional folk music. He's talking about his iPhone or magari appunto parla del suo telefono, skateboard, eccetera. Well, I mean, the basic things don't change, you know, you write about feelings, but it's not like we thought, let's make a folk band. It was more, I wrote a song, how can we bring it alive? And that's with every song that happens. You write a song and then you have to find out what suits best to the song. So the choice of instruments or how you sing it is about the song itself. And this is why I call myself basically a songwriter, because I don't try to just be a folk musician. It's the color that fits best to my songs so far. Ok, si dice, non è che uno decida, o lei abbia deciso di fare musica folk, lei ha deciso di scrivere delle canzoni, infatti si definisce una cantautrice, e poi ha cercato di dare alle canzoni l'arrangiamento, diciamo il colore, ha detto, lei proprio ha parlato come di una pittrice, come se fosse una pittrice, il colore che le si adattava meglio, che era più indicato per trasformare questa canzone in modo da essere apprezzata anche dagli ascoltatori, diciamo. The second song you play is with banjo, sì. Yes. Adesso sentiremo il banjo, che è uno strumento molto particolare, e anche il contrabbasso, suonato credo con l'archetto. È una delle cose più ingombranti che abbiamo avuto nei nostri studi. È anche uno strumento molto affascinante, anche se ha dei problemi logistici non indifferenti, devo dire. E il titolo della canzone è Not the Loving Kind, which means it's about someone, parla di qualcuno questa canzone. Not the Loving Kind, it's about someone who's not very easy to love, I think. Ok, sì, appunto you're dice about me, huh? Dice che è una canzone che parla di qualcuno che non è facile da amare, appunto Not the Loving Kind. Poi c'è stata la battuta che ha paura che sia rivolta a lui, ma non credo proprio. Allora ci ascoltiamo questo Not the Loving Kind dal vivo su Rock Wave. Casey McKenzie. 1, 2, 3. Thank you. feels old and worn out. Oh, my eyes so dry and dark, and my head so tired of working. Oh, but fragile is my heart. If you leave me here in silence, if you leave me stand alone, I will make these rails my pillow and the gravel be my home. Veramente impressionante la ricchezza che aggiunge alla canzone questo contrabbasso, che può essere usato appunto con l'arco o suonato come un basso normale, e appunto è molto flessibile in realtà come suoni. Io ho qui una copia promozionale dell'album in cui non ci sono le note, perché volevo chiedergli se ci sono altri musicisti che partecipano. Are there other people playing in the record or just the two of you? Just one is playing the cello on two or three songs. Three songs. That's it. The rest of it is us. Un violoncellista in tre canzoni, il resto lo fanno tutto loro, e non è poco, perché il disco ha degli arrangiamenti molto molto ricchi, ci sono interventi di vari strumenti, sempre molto attenti, molto delicati, ma efficaci. I mean, there are many instruments that appear in the record, but it's not overproduced. I mean, it's just perfect. I like it very much. You. The production. Do you have an external producer for the record? Or Buddy was producing the record. An intern producer. Buddy è anche il produttore del disco. But compliments. It's very, very well done. But thank you very much. But when I think, oh, what about this? Let's do it. And Casey says, no, I don't like it. She's the boss, so we don't do it. So it's a co-production. Co-production, yes. Someone tell what to do. Yes. Ok, si è detto, lui è il produttore, però alla fine era sempre lei quella che diceva questo va bene, questo invece non mi piace, per cui è una cosa, una democrazia dove comanda una, mi pare di capire. Democrazia, no? Yeah, it's one person democracy. Yes. Ok, penso che con un sorriso che si può far fare qualsiasi cosa. With a smile, she can handle you the way she wants, right? Yes. Bene. Allora, visto che abbiamo parlato del disco, ci ascoltiamo un altro pezzo. Questo è un brano che mi piace molto. Si intitola The Preacher's Wife, la moglie del predicatore. Can you tell us something about this song? Why the preacher's wife? It's a story. There's not really a story. It's hard to tell stories to the songs because the songs should explain themselves. I think I wrote it on tour in the Netherlands. And while you were married to that preacher. No, it's just really I cannot really say what it is about, because it might be too disappointing for the people. No, but you always use religious symbols. They have a meaning to you, I think. Ci sono dei simboli religiosi, perché è la canzone che parla della moglie di un predicatore, che è un'immagine molto americana, se vogliamo. L'ha scritta mentre era in tour in Olanda, non so bene questo che connessione possa avere. Poi nel disco ci sono anche i testi, per cui poi se qualcuno vuole approfondire magari con la lettura del testo si capisce meglio cosa intenda dire. Allora ci ascoltiamo questo brano intitolato The Preacher's Wife. Rock Wave, l'onda del rock. Rock. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. The Preacher's Wife era questo brano. E vi ricordo che tutti i brani che stiamo ascoltando, diciamo registrati, ecco, non live, sono tratti dall'album Dryland, che è uscito da poco. It's very new this record, right? It's no. Out. No? Yes, it's very new for Italy. Ah, ok, molto nuovo per l'Italia. So, I can't see. 2009, ok, I'm sorry. Quindi è del 2009, mi sono confuso. E, non avendo sentito gli altri dischi, così vorrei sapere come sono. Making a comparison between the old records and this one, because I don't know the other one. What can I expect from them compared to this? Are they different? The one before, which is called Hammer and Nails, is more quiet and more weird. And the Dryland record is a bit more. How can I say that? I have words, but you don't like them. It's a bit more compact or close. All right. Ok, si è detto, il disco precedente che si intitola Hammer and Nail è un disco più tranquillo, questo non sapeva bene come definirlo, l'ha definito compatto, close, you see? You say? Yeah, I think it's because we... più vicino. I don't know Italian, I can't help you. We recorded it in a very short time and it was just the two of us and the sound engineer, so it's a very private work. Very intense, and nobody listened to the record until it came out, and so I think it's very intense and close as a whole, very compact. Yeah, and it's just the work of me and Budi on it. It's not nobody else. Intimate. It's very intimate. Yeah, yeah. That's what okay. I wanted to say. Si dice questo è un disco che hanno realizzato loro due in studio. C'era solo l'ingegnere del suono e nessuno ha ascoltato il disco finché non è stato pronto, non è uscito, e quindi è una cosa molto molto loro, molto intima, e quindi anche molto spontanea probabilmente. As there are no influences from the outside, so we can say it's very spontaneous. Yes, I think so. Nobody was there to tell you what to do. Non c'era nessuno a spingerli a modificare. On the other records, also nobody else told us what to do or made suggestions. But we were working on a longer period with some friends playing this and that. And the record before is much more melancholic, I would say. And this one is a bit still intimate, but more stronger. Si dice questo è un disco meno melanconico del precedente, è più forte se vogliamo, più diretto, e è stato registrato anche in un tempo molto breve, mentre il disco precedente ci ha voluto più tempo, quindi hanno avuto più contatti con persone dal di fuori che hanno in qualche maniera portato un minimo di influenza, per cui forse questo è il disco che li rappresenta maggiormente. So we can tell that this record reflects you 100%. I don't think a record can reflect a person 100%. It's always a period of time you reflect with okay. a record. And if you would record the same record 1 week later, it would sound very different. So, and I'm at peace with that. But I think it's kind of the highlight of our folk sound. And I wonder where it's going from there. Che dice sì, il disco rappresenta non può rappresentare un disco, un musicista, se non in un preciso istante della sua vita. Se il disco fosse stato fatto anche solo una settimana dopo ci sarebbero state già delle differenze, e questo disco rappresenta probabilmente il picco della loro musica folk, e si sta chiedendo adesso dove andranno da questo, perché evidentemente we have to wait for the next record. Dobbiamo aspettare il prossimo disco per scoprirlo. If you want to wait, I would be really happy with that. Yeah. There's nothing else we can do. Non c'è nient'altro che possiamo fare. Come to our concerts. Yeah. That's what you can do. Si dice, ma pure vederli dal vivo intanto. You said that the next song it's a new one. Yeah, it's a very folky song, and I don't know what to do with it, basically. So we play it live and to see how it develops. And so we play it for you. Maybe it's a secret song, maybe we will never record, we don't know. Ok, allora questa canzone che adesso ci ascolteremo dal vivo si intitola Breadcrumbs. È una canzone nuova, è una canzone molto folk. Che sì, ha detto che non sa cosa farà di questa canzone, perché appartiene evidentemente forse a qualcosa che sta cercando di passare, di andare oltre. E può darsi che questa canzone non finisca mai su un disco, nel qual caso la nostra registrazione sarà un unico. So we are very, very happy to record it now. Allora, Breadcrumbs dal vivo, Casey McKenzie, sempre col banjo e contrabbasso. She laid the bundle down. Grass won't grow and no snow falls on earth black and dry. Mommy's gone, don't you cry, don't you cry. Brano che aveva un qualcosa di dark per me, non so. The atmosphere of this song was very somehow dark. Yeah, it's pretty spooky. Spooky, sì, ho detto spooky è abbastanza intraducibile in italiano, sono le storie di fantasmi, di spettri, spettrale, ecco, spooky dovrebbe essere la traduzione giusta. E, sì, vengono in mente appunto film, immagini della Grande Depressione in America, queste storie che abbiamo letto, film che abbiamo visto. Evidentemente è un immaginario che, pur partendo dall'altra parte dell'oceano, in Europa è molto, molto presente, molto forte. I mean, many images, also the way you dress in the back of the picture here, are coming from American stereotypes, but they are very common also in Europe. I mean, yes, all these things are coming us from books, pictures, movies. Yeah. Do you like movies, American movies? There's some movie that you consider connected to your music. C'è qualche film che maybe your music can be a soundtrack of, forse la musica potrebbe essere anche la colonna sonora di qualche film. Ci sta pensando su un po', eh? I don't know, there's not a specific movie. I don't watch many movies, I have to say, and I'm never up to date when it comes to books or music. Ti dice, non si tiene molto aggiornata su film e libri. I was influenced by some English literature, like Thomas Hardy, and but this is more I think it's about women, that books written about women or special women that influence me when I write. È molto influenzata da libri scritti da donne. Ha citato anche un romanziere inglese, Thomas Hardy. Why especially women? I grew up in a family with a lot of women around, and so I was influenced by this picture of the strong woman who runs the farm or who works and raises children, and like Gone with the Wind. A little bit like that, yes, but just a bit more modern. And I think we women still carry the history of the last 200, 500, 5,000 years, and we are not the same. This is what we've found out now. In the 70s, women claimed to be the same as men, and now we slowly find out that we are not the same as men. We have different words to tell the Luckily. Same story. Sì, Laura dice che è cresciuta in una famiglia dove c'erano molte donne e è sempre stata affascinata dall'immagine della donna, la donna forte, la donna di carattere che manda avanti la fattoria, come storicamente succedeva. Ho citato Via col vento così per fare una battuta come esempio. E diceva, dopo secoli in cui le donne avevano avuto questo ruolo, negli anni 70 hanno combattuto per essere riconosciute uguali agli uomini, ma adesso si accorge che in realtà non sono uguali, ci sono delle differenze che fortunatamente esistono, permangono. And I think my songs are very dramatic in when you look at the lyrics. So I'm always looking for a stronger way to express a feeling, because for example, the figures in Thomas Hardy's books are just, I think nowadays they couldn't survive, because you would just kill them, or you would just say she's weird because she cannot forget about this boy or something. And I'm interested in that. I'm interested in the psychology of what is love, and why do so many people suffer from love, and we have all the same feelings when somebody leaves us that we love so much, and now we want to we think we can handle it with psychologists and pills, or even without that, with just a new partner or something, but I want to go back to the essence of it. Ok, si dice le sue canzoni tendono a essere molto drammatiche, esprimere sentimenti molto forti. E noi facciamo l'esempio dei personaggi dei libri di Thomas Hardy, che hanno, diciamo, dei caratteri estremi, da quel che ho capito, perché non li ho letti. E si tratta di, appunto, di emozioni molto, molto violente, che adesso noi cerchiamo, pensiamo di poter gestire magari con l'aiuto di uno psicologo o dei farmaci, ma che in realtà sono troppo forti per essere gestiti. Alla fine quello che conta, che fa l'essere umano, è la capacità o meno di gestire l'amore, se ho capito bene, se mi ricordo bene tutto. So you mean that handle these feelings, it's overwhelming. It's yes. Si dice appunto che riuscire a gestire questi sentimenti a volte è troppo difficile per gli uomini, perché alla fin fine, even if we are modern, we are still acting like 100 Well, there's instincts. Five centuries ago. Yeah, there's instincts that you cannot just kill, you know. It's just everybody experienced it once in a while. You get up in the morning and you think about your lover or something, and you're sure about the feelings you have, and they change in a day or in a minute sometimes. And someone must be worried. Well, we are. I think we have to go back to these main feelings we don't have to go back. I'm lost in my sentence. You I'm trust. Sorry. maybe you want to say we have to come back to trust, the first feeling. Yeah, we don't do that very often anymore. If you go and find someone new, you just look if he's at the same, if he drives the same car or has the same feelings about if he wants a family or which town to live, what are his plans for the future, but I'm writing about love, you know, because love is something you cannot really control. Sì, cerco di riassumere un po' perché non è facile. Dice che lei scrive canzoni sull'amore, perché l'amore è qualcosa che non puoi controllare. Ha detto ci si sveglia vicino alla persona che si ama, e a volte capita che in un lampo i sentimenti possono cambiare, non ci si rende conto del perché, ma questo forse nasce dal fatto che si gestiscono le cose in maniera sbagliata. Ha detto, quando si conosce una persona nuova si pensa alla macchina che guida o ai suoi progetti per il futuro, invece quello che lei ricerca è l'essenza del sentimento, quindi il cuore, diciamo, del rapporto umano. Ascoltiamoci un altro brano dall'album Dryland, si tratta di Man of Gentle Birth. Rock Wave, l'onda del rock. Attracted to go. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Man of Gentle Birth era il titolo di questo brano. E prima, così parlando, ho fatto notare a Casey che la sua voce mi ricorda un po' quella di Natalie Merchant dei 10,000 Maniacs. E pare che non sia stato il primo a dirglielo. I'm not the first one to tell you about how your voice is close to Natalie Merchant. I'm very pleased by that. You must be. Sì, dice, le fa molto piacere. Natalie Merchant è sicuramente una delle voci più importanti, oltre che belle, degli ultimi 15-20 anni. E lei, Natalie Merchant, ha fatto un percorso un po' inverso, perché lei è partita da una band che all'epoca faceva una musica un po' più moderna, e poi Natalie Merchant played with the 10,000 Maniacs, that at the very start of the career they're considered as almost a new wave band or something. Yes. Like that, but now she's back to the roots. Mm-hmm. So maybe she is following you. I don't think so. But I have her album, the what is it, the Coal Miners, what is it called, the green one? Yeah, it's the green one where she sings all these folk songs. Sì, I don't remember the title too. Sì, sta parlando di un disco di Natalie Merchant in cui lei canta canzoni folk. Yeah. And it's a great album. I love it. Sì, dice, appunto, è un disco molto bello. Talking about business, is there an Italian distribution for the record? I don't know. I think it's distribution that if you go to a record shop and you ask for the record, they can order it. Okay. But I don't think someone is running around and putting it into the CD shops right now. But there is definitely a possibility to purchase the record via internet, or if you go and ask for it. Ok, allora parlando un po' appunto di affari, il disco questo che stiamo ascoltando, Dryland, è reperibile in Italia, nei negozi di dischi bisogna ordinarlo, oppure si può comprare su internet, che forse è la cosa migliore, più facile anche. E adesso ci suoneranno un'altra canzone dal vivo che si intitola The Shabby Bride, che parla di una sposa, quindi song about a wedding. It's not really about wedding. It's I grew up in a village where there were only 150 people living. Oh. And there was just one telephone in the village. Are you kidding? No, I'm not. And when I was 10, we had a telephone then, but I at first not. But where was it, in the eastern Germany? That was in the east part of Germany. Ah, ok. Allora, lei è cresciuta, no, perché è giovane, quindi quando mi ha detto questa cosa sono rimasto abbastanza sbalordito. È cresciuta in un villaggio di sole 150 abitanti, e dove quando lei aveva 10 anni è arrivato il telefono anche in casa, se ho capito bene, ma prima c'era un solo telefono in tutto il villaggio. Sounds like a story from the 30s. Sembra una storia degli anni 30. No, and in these villages there are sometimes people say about a woman who is not married but old or elderly, they say she might be a witch. Ah, in questo villaggio se c'era una donna, diciamo, avanti con gli anni ma non sposata, la consideravano una strega. And I was thinking about how a woman like this must feel, and because I guess she's very lonely and she would be very happy to have companionship. Yeah, of course. Sì, allora lei ha provato a immedesimarsi in questa persona, a pensare quanto sola poteva essere, triste, e di quanto desiderasse un compagno, e ha scritto questa canzone, appunto, The Shabby Bride. My heart is wide. Come and never leave. on your face. But how I long for your embrace. My old bones need a place to rest. Come hold me closer to your chest. Gentlemen, up to the church and back again. You will never hear me moan as long as I don't walk alone. Oh, come to me, and save me from what threatens me. For I've been down too many years, for I did waste too many. È un brano molto semplice questo The Shabby Bride, e così stavo pensando a occhio che la situazione in cui è cresciuta lei può ricordare quella di delle persone che abitano in alcuni stati americani con pochi abitanti. So, the place you grown up was looked like some part of the United States, like Oregon or Kentucky, you know, no. Only a few people lives. How far were you from a big city? Oh, it wasn't very far from a big city. It's just 1 hour or 1.5 hours from Berlin, so it's not really far. But it's one of these little side villages that you have in every country, and you can go to the bigger city if you want to. It's just 10 kilometers away or something, but your basic life is in this little tiny place. Yeah. Si è detto che alla fine abitava a poco più di un'ora di macchina da Berlino, quindi non sono proprio fuori dal mondo, però quando vivi in questi posti la tua vita è lì, insomma, in questo piccolo villaggio dove you always see the same faces, vedi sempre le stesse facce. Yes. Same faces, same animals, and they always make up the same stories about each other. Ah, si dice le stesse persone, gli stessi animali, e poi si raccontano sempre le stesse storie sugli altri. Suppongo che adesso invece viva a Berlino. Do you live in Berlin now? Yes, I moved there when I was 17. Si è trasferita quando aveva 17 anni. Berlino invece è una città fantastica, una nightlife much more entertaining city. They don't turn out the lights at 12 o'clock. Ah sì, non, a Berlino non spengono le luci a mezzanotte. which is what happened in your yes. in your village. That was like a plug for the whole town. Yes, and if you were outside you had a problem because it was pitch dark. Ha detto sì, a mezzanotte spegnevano le luci e a ritornare a casa poteva essere un problema perché era un buio pesto, come diciamo noi. Interessanti queste cose. Allora, direi che ci ascoltiamo adesso un altro estratto dall'album che si intitola Lovesick Boy, prima poi di chiudere poi la trasmissione con un altro pezzo dal vivo suonato da Casey e Pudi. È un nome un po' strano. But is that your real name? No. I have a real name, but everybody calls me Pudi since I am 12 years old. So. Ah, ok. Allora, Pudi non è il suo vero nome, è il soprannome che gli hanno dato da quando aveva 12 anni, per cui preferisce usare quello anche perché è più corto, più facile. Allora, il brano che ci ascoltiamo adesso, tratto dall'album, si intitola Lovesick Boy. Rock Wave, l'onda del rock. Gonna fight. so blue before early morning he went sailing. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato questa Lovesick Boy e siamo quasi alla fine di questo appuntamento dal vivo con Casey McKenzie. E questo brano aveva anche questo un finale abbastanza spooky, spettrale, con questa percussione che creava un'atmosfera molto particolare. È un disco molto interessante questo Dryland, e sono molto felice che Casey sia stata nostra ospite qui per presentarcelo. Spero abbiate gradito. Noi, come sapete, diamo sempre lo spazio, tutto lo spazio che possiamo, alla musica dal vivo, che è sempre la più bella emozione per chi ama la musica, e vedo che anche i musicisti apprezzano, per cui spero di poterli riavere magari per il prossimo disco. So, this was the first time in Italy, but for sure not the last time. So, I hope we come back. Yeah, so you can come back with the next record, I hope. And when is planned? Do you have a time plan for the next record or not? Not really, because I want to take my time with this record, because we've been touring so much with Dryland, and I think it will... I don't want to make a fast record. Ok, si dice che non sa ancora quando verrà fatto il prossimo disco, perché vuole prendersi una pausa. Ha suonato dal vivo veramente molto dopo l'uscita di questo album, e quindi vuole prendersi il tempo giusto, non vuole fare un disco frettoloso, vuole pensarci su bene. Mi pare di aver capito comunque che l'idea è di fare qualcosa di diverso. As far as I understood, you want to do something different. I really don't know, because non lo so. Because I didn't have time to really work on stuff, so I just kind of collected ideas, and when I'm home now for 4 weeks after the big fat winter tour, I think I will figure out in which direction it will go. But basically, the record writes itself, so I just have to be there. Just show up at work. Never happened to me. Dice che il disco fondamentalmente si scrive da solo, a lei basta essere lì, a me l'ho fatto presente, a me non è mai successo niente del genere, forse non ho la penna giusta, don't have the right pencil probably. Comunque ha molte idee per il disco e starà a casa qualche settimana dopo il tour per metterle insieme e cercare così di capire la direzione che prenderà. Aspetteremo il tempo che ci vuole per le cose fatte bene. Things well done takes time, so we have to wait, and we'll be there. Yeah, we'll usually be here waiting. Thank you. Usually we put out a record every 2 years, so I think autumn next year is realistic, but if it takes longer, then I'm fine with it. Ok, si dice normalmente ogni 2 anni fanno un disco, per cui teoricamente nel 2011 dovrebbe esserci un nuovo album, ma se non dovesse essere così non è un problema, nel senso che lo farà uscire quando sarà il momento giusto, quando si sentirà di aver fatto le cose per bene, ecco. Allora, Casey e Pudi ci lasciano con un'ultima canzone che si intitola Hammer and Nail, ed è la canzone che dava il titolo al disco precedente del 2007, che è 2008. Ah, ok, allora del 2008. Bene, con questo pezzo si chiude questo appuntamento con Rock Wave, con la musica dal vivo. Rinnovo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, restate sintonizzati, controllate sul nostro sito dove vengono sempre annunciati in anticipo i musicisti che passano a suonare qui nel nostro studio. Sono sempre appuntamenti bellissimi come questo che abbiamo vissuto questa sera. Da Stefano Dainese un grazie e buonanotte. Naturalmente thank you Casey, thank you Pudi for being with us. It's been a pleasure. Thanks for having us. It was a real pleasure. Thank you very much for the invitation. You're welcome, always welcome. I got me hammer and nails and went to see the man. Those rusty jewels in my bag I wore on sacred land. Mama said, put on my white dress, stretch your back and smile. You've been raised on work and hunger. There's no del rock. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze.